2010, man, direttamente per nostro fratello Pixel Rap, man. E allora? Parli facendo i brevè, good. E allora? 2010, Master Blef, Sponda Man, direttamente dal CP Bronx, per nostro fratello Physical Die. No, Pixel Rap. Ah, è Pixel Rap. Caricate questo disco, negri, o compratelo se Pixel lo vende, è una bomba. Se non ca... Codedacu. Ok, Master Blef, Sponda Man, e tocca prendetelo. Io, vai, la faccio io. Caribo. E ci esci da. Chiamare il numero verde 899-55 e fatti inculare. Eia, eia, di brutto. E Pixel Rap, menti dallo sfascio. E passa in bida sponda con la punta. No, no, la punta non passa più. È vero. No, no, no, no, no, questa è una cagata. No, è una cagata.